Letture di Radio 24. È il cristianesimo la religione più perseguitata al mondo. Non è soltanto oggetto di odio e disprezzo da parte di intellettuali e politici occidentali, magari gli stessi che poi fanno finta di nulla di fronte alle violenze perpetrate in nome di Allah. È anche oggetto di un vero e proprio massacro. Soltanto nello scorso anno la media è stata di un cristiano ucciso ogni 5,8 minuti. Non c'è solo la terza guerra mondiale a pezzetti, quella magistralmente inchiodata all'attenzione del mondo dalla definizione di Papa Francesco. C'è anche un secondo olocausto a pezzetti e questa volta riguarda i cristiani. Lo conferma l'ultimo rapporto relativo al 2016 del Center for Study of Global Christianity. Anche nei 12 mesi da poco conclusi, conferma il rapporto, è stata rispettata la quota annua di persecuzione. 90.000 battezzati sono stati uccisi a causa della loro fede, al ritmo di uno ogni 5,8 minuti. In grande maggioranza, 70%, questi martiri contemporanei sono morti in Africa, il resto in Medio Oriente e nel reticolo delle stragi che ogni giorno si compiono in Asia e in altre parti del globo. Sempre secondo le valutazioni del Center, il numero dei cristiani martirizzati nel decennio 2005-2015 supera abbondantemente le 900.000 persone. E come le recenti vicende in Iraq, Siria ed Egitto dimostrano, per fare solo qualche esempio, questo olocausto a pezzetti non mostra segni di rallentamento e fa nettamente del cristianesimo la religione più perseguitata al mondo. Si tratta di un vero e proprio olocausto a pezzetti che non mostra segni di rallentamento e fa nettamente del cristianesimo la religione più perseguitata al mondo. È peraltro interessante notare che su 196 paesi presenti alle Nazioni Unite, ben 102 impediscono in modo più o meno violento ai cristiani di praticare liberamente la loro fede. E meno della metà di quei 102 sono paesi a maggioranza islamica. L'aspetto straordinario di questa vicenda è che i cristiani di ogni parte del mondo, e in particolar modo quelli del Medio Oriente, si sforzano giorno per giorno, con ogni mezzo, di segnalare il loro dramma alle cancellerie che più contano al mondo. E giorno per giorno, da decenni, si scontrano con l'incapacità dell'Occidente di modificare politiche e strategie che accentuano, invece di ridurre, i loro problemi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fulvio Scaglione, La religione più perseguitata al mondo? Il cristianesimo, pubblicato il 1 febbraio sul sito L'Inchiesta. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Letture di Radio 24. In Francia il Consiglio Costituzionale ha appena sdoganato lo sculaccione ai figli. Ma davvero dobbiamo aspettare una legge dallo Stato per sapere come educare i figli o come comportarci con mogli e mariti? Si domanda al sociologo Stefano Zecchi in un articolo pubblicato sul Giornale. Se è questo che vogliamo, è chiaro che non abbiamo capito niente della cosa più importante: il significato di famiglia e di educazione sentimentale. Famiglia, educazione, sono cultura, sensibilità, sentimento della vita che si è costruito nel tempo con l'esperienza e i ricordi. Una legge è figlia di una visione politica. Oggi la fanno i socialisti che sono maggioranza, domani la smontano i liberali quando non sono più minoranza e noi dovremmo accettare che lo Stato ci dica come stare in famiglia, come educare i figli? è offensivo. Il Consiglio Costituzionale della Francia fa un passo indietro e con buon senso decide che dare uno sculaccione a un bambino non è reato, come volevano i deputati socialisti, radicali, ecologisti. La violenza venga punita dalla legge, ma questo non significa che la legge ci debba dire come educare i nostri figli. In Russia, la Duma, la Camera Bassa del Parlamento, fa addirittura due passi indietro rispetto alla Francia, esagerando. Viene depenalizzata la violenza domestica, purché l'aggressione non provochi danni di salute alle vittime e non sia reiterata. Sia chiaro, nessun tipo di aggressione può essere considerata una forma di educazione o di ragionevole conduzione della vita familiare. Con la volontà di non interferire nel privato, lo Stato russo innesta una sorta di anarchia nella realtà familiare, in cui è ammessa, appunto, anche l'aggressione. Evidente così l'assenza di protezione delle figure più deboli della famiglia, che dovrebbero invece essere tutelate dal codice penale. Sono del parere che in generale, quando lo Stato interviene con capziosità nel privato, significa che la struttura portante della società, la famiglia, è debole. Se lo Stato fosse davvero interessato a ciò che accade là dentro, si preoccuperebbe di due cose. La prima è di sostenere economicamente le famiglie, difendendo la natalità. Naturalmente sto pensando alla realtà italiana, ma sempre e ovunque, quando una famiglia dispone di una propria sicurezza economica, diventano più semplici le dinamiche di comunicazione interna. La seconda è quella fondamentale. Deve essere difesa culturalmente l'idea di famiglia come centro indiscutibile di educazione. Libertà di educare i propri figli come si ritiene giusto, in base a un principio di responsabilità, inteso come cognizione del limite di ciò che è lecito. Se è assente questo senso di responsabilità, non sarà mai lo Stato a surrogarlo, per poterlo consegnare alle famiglie affinché lo utilizzino con sapienza. E ci sia libertà di scelta della scuola, scelta importantissima, che dà l'opportunità di non affidarsi necessariamente allo Stato per la formazione dei propri figli. Leggi che non siano arroganti con la loro ingerenza nel privato per dire ciò che è giusto o sbagliato fare, ma che abbiano invece l'autorevolezza di stroncare la violenza vera che drammaticamente si annida nelle famiglie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Zecchi, La lezione opposta della Francia, lo sculaccione è ancora educativo, da Il Giornale del 28 gennaio. Distratti da computer, console e smartphone o semplicemente infastiditi dalla qualità della proposta, sono in continuo aumento i giovani che disertano la televisione. Secondo i dati che lo studio Frasi ha elaborato per l'Auditel, nell'arco di un anno la percentuale dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni che consuma TV è scesa del 15,6%. Perché stupirsi? Sono evidenti i motivi che portano il club dei millennials a disdegnare l'uso del telecomando. A parte l'inadeguatezza del televisore come oggetto, del tutto estraneo al dinamismo contemporaneo, e facendo finta pure di non accorgersi che è defunta la visione collettiva nel perimetro domestico, padre, madre e figlioli che sul divano fissano lo schermo, regna in particolare nel ramo generalista l'incapacità di costruire programmi che seguano i tragitti mentali dei ragazzi. Non si cerca cioè di dialogare con un mondo privo di riferimenti assoluti, ma si punta su ingredienti algidi come il didascalismo e la catalogazione. Trattati da animali esotici, i giovani sono diventati oggetto di inchieste che incrociano al massimo l'attenzione di adulti a caccia di strumenti per comprendere i loro rampolli marziani. Oppure li si sfoggia con astuzia in luoghi ad alto sfruttamento emotivo e artistico, come amici. Oppure ancora li si costringe nella gabbia dello strano ma vero che sempre genera curiosità, come nel Riccanza proposto da MTV, dove protagonista è la quotidianità di under 30 che passano giorni e notti vagando tra una fuoriserie e un party, la piscina di una villa shock e il consumo compulsivo di champagne e altro generico lusso. Nulla di sorprendente nell'insieme. Da cui la consapevolezza che su questo versante catodico l'inutilità fiorisce almeno quanto la noia. Mentre più efficace avrebbe potuto essere l'idea di Rai 2 e della casa di produzione Magnolia di racchiudere un gruppo di studenti dentro un collegio con regole degli anni 60, filmando poi il logico disagio di fronte alle regole e privazioni imposte. Finalmente un tentativo di sparigliare le logiche narrative veniva da commentare in partenza. Un po' di fantasia e contaminazione sociale nel pieno rispetto dei doveri dello spettacolo. Se non che il tentativo ha portato al più indigesto degli esiti, ovvero la scoperta fatta da tvblog.it che parte degli studenti e del corpo insegnante avevano già frequentato il circo Showbiz da un lato e dall'altro la constatazione che il collegio è riuscito in effetti a conquistare con le sue malizie il pubblico giovane. Quindi, per una volta che l'operazione è riuscita, considerando gli ascolti, si è data in pasto carne avariata ai denti di latte. Salvo poi stupirsi e lamentarsi a raffica che quel segmento commerciale di teleutenti latita, scalcia e corre imbizzarrito altrove. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Riccardo Bocca, Giovani traditi in fuga, dall'Espresso del 29 gennaio. Per quelli della mia generazione, nell'ambiente della cosiddetta musica alternativa, Sanremo era il demonio. Alla vigilia della 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Manuel Agnelli, leader degli After Hours e popolare giudice dell'ultima edizione di X Factor, ricorda di come nel 2009 il suo gruppo decise di sfidare i tabù e di partecipare al festival, sapendo che molti dei loro fan non avrebbero apprezzato. E ancora che non tocchi a te. Da anni Sanremo è solo un megafono promozionale, anzi, il megafono. La cosa più potente a disposizione di tutti quelli che ne sanno approfittare e per questo tutti hanno cercato, a volte violentandola, a volte imbalsamandola, di cambiarla e di adattarla ai loro scopi. Ma il DNA del festival è troppo forte e resiste a ogni cambiamento. Con il tempo ha perso persino la funzione simbolica di nemico culturale, ed è diventato puro trash. La rappresentazione di un'Italia che non ci piace e di un modo di fare spettacolo che svilisce qualsiasi tentativo di commistione con il mondo culturale. Non la controcultura della controcultura. Il niente, che è molto più potente. Infatti abbiamo continuato tutti a guardarlo. Sanremo, come l'Italia, non si cambia. Bisognerebbe fare la rivoluzione, ma sarebbe destabilizzante per tutti. Cambiarlo è come montare un paio di gambe lunghe su uno dei nani che accompagnano le ballerine e fare finta che sia alto. Cambiarlo sarebbe inaccettabile per i farisei della cultura che dal festival continuano a essere rassicurati sulla loro intelligenza. Quello che serve non è cambiare Sanremo, così come non è cambiare le cose che esistono, ma crearne di nuove che non nascano già contaminate o non siano già troppo marce per poter rappresentare ogni parte musicale del paese con tutta la libertà che occorre. Oggi c'è una domanda e un consumo di musica enorme, se paragonato al passato. Consumo inversamente proporzionale alle vendite dei supporti. Un programma solo non può contenere tutta la musica, tutti i punti di vista, neppure il riassunto di questi. Perché è il riassunto che uccide, e la televisione di oggi è piena di minestroni. Oggi la prima cosa che ci chiedono su Sanremo non è se ci piacque andarci e se ci divertemmo, ma se ci servì. Ebbene, ci servì. Definitivamente, a capire la reale pochezza di tutto un ambiente, quello alternativo, che ormai non riesce neppure a diventare alternativo a se stesso, pieno di regole, gabbie e creativamente poverissimo come mai in passato. Ci servì per i motivi per i quali serve a tutti: la fama, la credibilità fra gli addetti ai lavori e la conseguente disponibilità nei nostri confronti da parte di una serie di entità che non ci avrebbero mai preso in considerazione prima. Avere il potere per poter realizzare progetti. Ci servì a fare una cosa piccolissima, portare un messaggio senza dover vincere per farlo. In fondo Sanremo è la confessione della cultura del vincere a tutti i costi che appartiene alla nostra epoca, anche se la rappresenta. Anche se il format è costruito attorno a una gara, vincendo lì il più delle volte, si viene fagocitati. Lunghissimo è l'elenco dei vincitori spariti nel nulla. Si possono dire e fare molte cose non vincendo, e a noi successe così. Infine ci servì, perché lo facemmo. In fondo non stavamo mica andando alla guerra. Cosa c'eravamo immaginati? ne uscimmo rasserenati. La gente è destrutturata culturalmente, non riesce più a distinguere il valore del vivere, perde il lavoro, parla e scrive usando pseudonimi allacciata con le cinture di sicurezza al divano, non ha più ideali e diventa nichilista rifacendosi naso, culo, tette. Si ammala, muore, ma continua ad avere una valanga di energia e a riversarla con tutta la violenza distruttrice di cui è capace. Sul nulla. E alla fine, miseramente, ti accorgi che questa è solo musica. Per lo più brutta, per lo più finta, ma solo musica. Per questo, quando mi chiedono se lo rifarei, non ho dubbi nel rispondere: certo, cari, ma solo se conviene. Solo se conviene. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Manuel Agnelli, Sanremo sì, Sanremo no, dal settimanale Robinson, allegato alla Repubblica del 29 gennaio. Io voglio far qualcosa che serva. Fammi far solo una cosa che serva. Dir la verità è un atto d'amore. Fatto per la nostra rabbia che muore.